Mi pomeriggio da Gigi Telesforo, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e oggi siamo in visita in uno degli studi più importanti del nostro paese, uno studio di registrazione storico, uno studio che si chiama Forum, fondato nel 1969 da una combriccola di eccellenti compositori, non posso dimenticare Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Piero Piccioni, ma anche con la partecipazione del produttore e manager Enrico De Meli, che pensarono bene di utilizzare una parte di questa struttura che è ubicata all'interno della chiesa del Sacro Cuore di Maria in piazza Euclide a Roma, ottenendo anche dei permessi speciali garantiti dalla città di Roma e dalla chiesa di Roma. Quindi questa struttura esiste dal 1969 e a guidarla ormai da molti anni è proprio Marco Patrignani. Siamo tuoi ospiti, Marco, e quindi buon pomeriggio e benvenuto al soundcheck di Radio 24. Grazie all'amico Gegè, è un musicale così saluto e benvenuto a tutti i radioascoltatori di Radio 24, che è una radio che apprezzo molto e che ascolto ogni volta che ne ho l'occasione. Allora, realizziamo il nostro soundcheck per due puntate, oggi e domani. Oggi ci concentriamo proprio sull'attività di uno studio così importante, uno studio che continua a tenere viva la musica nel nostro paese. Da questo studio sono passati senz'altro i numeri uno della musica leggera italiana, sono stati fatti, realizzati tanti successi che poi abbiamo ascoltato nei vari festival di Sanremo, lo abbiamo detto, colonne sonore, ma domani parliamo proprio del lavoro di un direttore d'orchestra, di un compositore in questo studio, nella realizzazione di una colonna sonora. Insomma, tanta musica e anche grandissimi nomi del gotha internazionale del music business qui allo Studio Forum, che comunque nel corso degli anni è cambiato tantissimo e quindi c'è stata un'evoluzione da un punto di vista tecnologico, ma anche un po' nella mentalità. Allora, raccontiamo anche la tua storia, Marco. Tuo papà è stato l'ingegnere del suono storico legato allo Studio Forum, poi a un certo punto hai preso le redini della struttura. Quindi qual è la tua storia all'interno del Forum? La mia storia è, per quanto sono ancora insomma giovane, ma abbastanza già densa di accadimenti, per fare una lunga storia corta, come dicono gli americani, la mia attività nasce qui, quindi io sono cresciuto oltre che a latte e cibo, soprattutto di musica, nastri analogici, così come si registrava una volta, e in regie di sale di registrazione, dove il mio papà, grande e illustre tecnico del suono, lavorava a contatto con i più grandi artisti nazionali ma anche internazionali. Quindi immaginate che io a 7 anni giravo per gli studi, andandomi a divertire in uno spazio con uno strumento piuttosto che ascoltare dal vivo, a partecipare a una registrazione. Così ho imparato molte cose, oltre alla grande passione. Quindi, appena terminati i miei studi e la mia laurea in comunicazione, ho deciso di applicare quello che ritenevo di aver imparato a servizio della musica. In particolare ho sempre amato e sognato di fare il produttore discografico, e così, siccome ogni sogno può diventare realtà, nel mio caso lo è stato, ho all'età di 22 anni realizzato una prima produzione applicando tutto ciò che avevo imparato dal cuore di questo mestiere e a contatto diretto con artisti, produttori e case discografiche. Pertanto è arrivato il momento di mettere a frutto tutto questo e questo mi ha portato a realizzare una prima produzione di un artista esordiente che ebbe un successo molto importante. Si chiama Massimo Di Cataldo, che colgo l'occasione per salutare, con il quale ho condiviso un momento bellissimo della mia vita professionale, perché all'età di 26 anni io e più o meno lui, ci distingue qualche mese, abbiamo in 2 anni, tutti ricorderanno il grande successo d'esordio di Massimo Di Cataldo, venduto oltre 500.000 di dischi con 5 partecipazioni al Festival di Sanremo. Quindi un esordio importante come produttore discografico, mai fatto, anche di più, e lo racconteremo in questa puntata. Intanto per me è sempre un'emozione venire al Forum, perché lo studio racconta l'evoluzione anche della tecnologia, è diventato anche in parte un piccolo museo. Ci sono le macchine di un tempo, si lavorava sui banchi analogici con registratori a 24 piste, insomma è una bellissima esperienza tornare allo Studio Forum. E allora facciamo una breve pausa, andiamo con la musica, un album nuovissimo, te lo faccio ascoltare, si tratta di Beck con Heart is a Drum, qui al Soundcheck di Radio 24, poi di nuovo qui dallo Studio Forum di Roma. Back da Morning Face, il nuovo album, il brano era Heart is a Drum. Siamo qui nello Studio Forum di Roma con Marco Patrignani, che guida una delle strutture più importanti nel nostro paese per quel che riguarda lo show business musicale. Sound check. Il suono della musica. Di Shirley Bassey qui al Soundcheck di Radio 24 con Imagination, e mi sembra perfetto il suono di Shirley Bassey con un grande organico a disposizione, proprio perché ci troviamo allo Studio Forum, uno studio perfetto per i grandi organici, e siamo ospiti proprio di Marco Patrignani, che ha reso questo studio un ambiente sicuramente accogliente, ma c'è stata proprio un'evoluzione. Quello che una volta era solo uno studio di registrazione si è trasformato in un village, cioè nel Forum Music Village. Esattamente di che cosa parliamo, Marco? Allora, come dicevamo prima, dopo la mia esperienza, diciamo, di produttore, che è continuata anche con importanti collaborazioni con Anna Oxa, Daniele Groff e altre partecipazioni al Festival di Sanremo, avevo la responsabilità di traguardare questo luogo storico che ha una grandissima storia verso un presente, ma soprattutto un futuro brillante, perché credo che questa sia una responsabilità oggettiva per la cultura nel nostro paese. Per questo ho deciso, visti i miei trascorsi e i successi discografici che ho avuto la fortuna di ottenere, di investire tutta questa mia energia verso il futuro di questo luogo. Tu raccontavi la storia importante creata in una prima fase da Morricone, Trovajoli, Bacalov e Piccioni, in una seconda fase da Franco Patrignani, mio padre, grandissimo ingegnere del suono, che ha registrato dei dischi memorabili, ha una terza fase che è quella che mi ha riguardato a partire dal 1997, quando ho costituito e rinominato questo luogo storico in Forum Music Village. Perché? Perché oltre a uno studio di registrazione, come evidenziavi tu, oggi sarebbe estremamente limitativo guardare una struttura di questa tipologia soltanto nella sua attività di, fra virgolette, locazione di sale per quanto prestigiose di registrazione. Ecco che quindi trovo che un luogo di questo tipo trovavo che dovesse divenire invece uno spazio multifunzionale, produttivo in ambito culturale e musicale. Quindi uno spazio che in qualche modo può essere aperto anche al pubblico, si può visitare il Forum? Sì, assolutamente sì, previa prenotazione. Trovate i nostri contatti sul sito forummusicvillage.com. Senz'altro tutti gli appassionati, previo appuntamento, trovano una porta aperta sicuramente. Mi piace raccontare anche cosa cosa si può trovare all'interno di questo spazio. Questo spazio è creato da tre grandi studi di registrazione, di cui uno che tu accennavi, leggendario per dimensioni e per storia, che è lo studio A, il celeberrimo studio A, dove sono passate oltre 3.000 colonne sonore, le più importanti che noi possiamo immaginare, inclusi i premi Oscar, Il Postino, La Vita è Bella, Nuovo Cinema Paradiso, e che più ne ha più ne metta, veramente una storia di quasi 50 anni. Ma non solo, perché questo luogo ha ospitato figure leggendarie del calibro di Quincy Jones, dei grandi registi nei loro connubi, ecco perché la particolarità di questo luogo è mettere insieme il mondo del cinema con quello della musica leggera, con quello della musica jazz, con quello della musica classica, quindi un luogo assolutamente unico per trasversalità. Questo cosa significa? Significa, come possiamo vedere, magari dopo andiamo a fare una passeggiata giù a Gegè, perché a partire dal Wall of Fame che troviamo all'ingresso degli studi, dove leggendari artisti hanno lasciato la loro dedica, possiamo capire proprio la trasversalità. Un esempio ne è la frequentazione dei registi nel loro connubio con i compositori, quindi Morricone con Giuseppe Tornatore, piuttosto che Piovani con Roberto Benigni, piuttosto che con Nanni Moretti. Ecco, si consumano dei connubi artistici straordinari in queste mura, ed è questo che ancora oggi si respira nello studio A che andiamo adesso giù a visitare, perché credo che ci darà lo spunto per far capire meglio ai nostri amici ascoltatori di cosa stiamo parlando. Allora, tu hai nominato Quincy Jones, hai detto trasversalità, e chi meglio di Quincy Jones può rappresentare il cinema, la colonna sonora, la musica contemporanea e così via, ormai da tanto tempo. Allora, Quincy Jones con la partecipazione di Mary J. Blige, Q-Tip in Betcha Wouldn't Hurt Me, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, fa proprio impressione verificare qui sul The Wall of Fame, all'interno dello Studio Forum, esattamente proprio quasi all'ingresso, le firme, i nomi dei grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, ma anche di anni fa, nomi di registi meravigliosi. Abbiamo seguito tutti i film scritti e interpretati, che so, da Roberto Benigni, vedo qua anche Pupi Avati, ma poi la firma di Oliver Stone, mamma mia Marco, ma scusa, ma quando venivano nello studio tutti questi signori a registrare e a lavorare, tu come ti sentivi? Come vivevi il tutto? Molto bene, con grande entusiasmo, soprattutto imparando molte cose. Ti posso dire, quella più importante è l'umiltà, perché è una cosa che pochi immaginano. Abbiamo tutti nel nostro immaginario, no? Pensiamo che i grandi artisti, le personalità famose sono schive, altezzose. In realtà io ho scoperto, imparato in diretta, che i veri artisti, le grandi personalità non hanno bisogno di dimostrare nulla, e quindi sono le persone più umili che noi possiamo immaginare. Ne è un esempio, una testimonianza, Quincy Jones, con cui ho avuto l'occasione proprio di lavorare insieme a stretto contatto per una settimana in occasione di We Are the Future, e è incredibile il suo approccio, il suo atteggiamento. Sembrava che fosse con una persona qualsiasi, in realtà, come tu sai, è forse, insomma, la personalità più importante della musica di tutti i tempi. Quindi sì, effettivamente vediamo quello che cercavo di raccontare prima, una frequentazione. Perdonami, ma leggo qui la dedica di Ennio Morricone, lo abbiamo detto che è uno dei fondatori dello studio nel 1969, e c'è la dedica bellissima. Dovrei dire, lo studio di registrazione Forum Music Village è la madre di tutti noi compositori del cinema, dei dischi e della musica registrata. Dico madre perché è lo studio che si è sempre preoccupato di aggiornare le proprie attrezzature e ne parleremo, per aiutare noi compositori del cinema e del disco a fare meglio. Si lavora con dei tecnici di grande livello, con la gentilezza di tutto il personale che collabora totalmente. Potrei dire di più, entrando nei particolari, anche minimi, ma forse non è utile. E chiude Ennio Morricone: utile sapere che al Forum Music Village si vive tutti per la musica e per la passione del suono. Beh, una grandissima dedica, eh? Enorme, anzi cogliamo l'occasione per ringraziarlo ancora e salutarlo, Ennio Morricone, e insieme a lui tutte le altre grandi figure artistiche, conosciute o meno conosciute, perché una cosa interessante di questo villaggio, ecco, appunto, nella sua nuova veste, è proprio quella di ospitare anche non solo i grandi artisti, che sono sempre benvenuti, ma anche i nuovi artisti, quindi tutto il mondo underground, a cui oggi il Forum Music Village fa un appello e apre le sue porte affinché ci possa essere la possibilità di condividere questa meraviglia e l'opportunità di lavorare in questi studi di registrazione anche per diciamo gli artisti indipendenti, per i giovani che si affacciano a questo lavoro, e noi gli diamo il benvenuto e li aspettiamo. Allora, dai Black Eyed Peas a Jovanotti, da Riccardo Cocciante a Warren Beatty, da Placido Domingo a Rizzo Ortolani, c'è la storia della musica, del cinema in questo studio meraviglioso. Allora, noi ci tratteniamo anche per domani, Marco, domani parliamo proprio del lavoro complesso della colonna sonora, visto che lo studio A del Forum Music Village è uno degli studi più importanti in Europa per questo tipo di registrazione e di lavoro. Allora chiudiamo questo appuntamento del Soundcheck. Marco, ti faccio ascoltare le voci di Diane Reeves e Lala Hathaway in Waiting in Vain, un vecchio successo di Bob Marley, per chiudere in bellezza, in maniera assolutamente solare, questo appuntamento del Soundcheck dal Forum. Grazie a Marco Patrignani. Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori di Radio 24. Allora Marco, ci vediamo domani. Il suono della musica.